Salve a tutti, sono Stefania, sono qui dagli amici di Radio Big World e sono qui per parlarvi del popolo di Barabba. Però oggi il popolo di Barabba lo faccio trasferire in Africa, precisamente nella Repubblica Democratica del Congo. Tenete bene a mente, Repubblica Democratica del Congo. Sapete nei miei precedenti interventi che io ci sono stata nella Repubblica Democratica del Congo, perché insieme ad un'associazione, cioè anzi grazie a questa associazione, mi ha dato l'opportunità di andare a vedere come vive la popolazione di questa martoriata terra. Dunque, l'altra sera sono stata presente ad un incontro che ha partecipato una suora laica che appunto opera nel Congo, opera nel senso che ci va periodicamente, ci vive anche per diversi periodi, e lei ci ha parlato della terra della Repubblica Democratica del Congo, della ricchezza del sottosuolo di questo territorio. Ci ha parlato dei minerali, quindi ci ha parlato dello stagno, ci ha parlato dell'oro, ci ha parlato del coltan, quel famigerato coltan che serve per fare i nostri telefonini, per fare gli iPad, cioè per fare quegli strumenti che servono a noi oggi, ma anche a loro, per la comunicazione. Il Congo ne è ricchissimo, veramente tanto ricco, addirittura è enorme la ricchezza di quel territorio ed è anche in superficie, non è che si deve scavare tantissimo per trovare questi minerali, quindi immaginate le multinazionali che hanno messo le loro grinfie, perché si parla di questo, le loro grinfie su quel territorio, sfruttandolo e facendo accordi con il presidente, che invece di essere un presidente, sapete come la penso, è un criminale dittatore. Quindi la Repubblica Democratica del Congo, secondo me, non è una Repubblica Democratica, ma è semplicemente Congo ex Zaire, condotto da dei criminali, dittatori. Così è sempre stato, almeno da tantissimo tempo, da quando il colonialismo belga ha cessato di essere colonialismo belga, ecco, e sono entrati i dittatori e hanno fatto quello che in pochi sanno, purtroppo. Oggi in Congo, io ci sono stata nel 2011 e era un periodo relativamente quieto, diciamo. Si vedevano sempre in qua e in là le camionette dell'ONU a vigilare, anche qui stendiamo un velo pietoso. Oggi invece la Repubblica Democratica, il Congo riprende le sue guerre. E sono guerre di cui non si parla. Ogni giorno centinaia di persone vengono uccise con i maceti, cioè i ribelli vengono forniti di queste armi in cambio di gloria, di nomi altisonanti, in cambio di qualche dollaro, e gli viene ordinato di fare le stragi nei villaggi dove la gente potrebbe vivere tranquillamente e in pace, e invece non è così, grazie a questa ricchezza nel loro territorio. Che paradosso. L'altra sera la signora che ci ha parlato ci ha detto un'altra cosa. Io sono rimasta davvero così, ahimè, non c'è più davvero speranza, anche se la speranza è l'ultima a morire, però davvero siamo compromessi sotto questo punto di vista. Ci ha parlato del cobalto, che il Congo è ricchissimo anche di questa sostanza. Il cobalto, ne parlavo con il mio amico Pasquale pochi minuti fa, è quella sostanza con cui veniva quella pietra, diciamo, no? Quella sostanza, quel minerale, quella pietra blu, infatti blu cobalto, che serviva per dipingere. Ecco, questa pietra, questo minerale oggi serve per fare le batterie di quelle che dovranno essere le auto elettriche. Immaginate che cosa può succedere nel Congo, perché il Congo ne è ricchissimo, soprattutto la parte sud del Congo. Immaginatevi appunto che cosa può succedere ancora in questa terra, che cosa sta succedendo, via. Il presidente Joseph Kabila, che è lì dal 2006, quando in molti speravamo che emergesse davvero l'alba della democrazia, in tanti davvero, dopo anni e anni di guerre, di conflitti, di morti, pensate, 8 milioni di morti in quel periodo. L'alba della democrazia per questo presidente, che va in giro con un Rolex enorme, dove nelle città di Lubumbashi e di Kinshasa ci sono le sue gigantografie alte e larghe, 30-40 metri, non so, dove mette in evidenza questo orologio, simbolo del potere sui più poveri, e lì i poveri sono il 99,9%, l'unico ricco credo sia lui e pochi altri. Ci speravano i congolesi in questo, infatti andarono in tantissimi a votare, lunghe code di persone che si alzavano tre giorni, cioè che si mettevano in cammino 3 giorni prima per arrivare a votare e a votare colui che li avrebbe liberati da questa schiavitù, da questa guerra, perché di schiavitù si parla, di guerra. E di essere dimenticati gli ultimi. Pensate, nel Congo non c'è l'anagrafe, quindi chi nasce non viene registrato, molti almeno, nelle città questo non lo so, però nei villaggi nessuno viene registrato quando nasce, quindi non esiste per il mondo chi nasce. Non esiste. Questo credo che succeda anche in altri paesi dell'Africa, però in Congo sì, perché ve lo posso raccontare, cioè lo so. Invece non è stato così. Nel 2006 Joseph Kabila si è insediato, ha preso potere, aveva promesso strade, aveva promesso ospedali, aveva promesso scuola, istruzione. Non ha fatto assolutamente niente. Le strade le stanno facendo ora i cinesi, perché si comprano i terreni, in cambio dei terreni così ricchi, ne ho parlato prima, loro gli fanno le strade. Fanno le strade, ma si parla di 100 chilometri, di 150 chilometri. Pensate che il Congo è 10 volte l'Italia, ha una superficie di 344.000 chilometri quadrati, l'Italia ne ha 35.000 circa, quindi 10 volte pari pari l'Italia. Pensate voi che cosa sono 100 chilometri, 140 chilometri di strada asfaltata, quando poi nel periodo delle piogge sicuramente queste strade reggono 10 giorni e poi ritornano le voragini che ci sono, quindi non ci sono comunicazioni, il popolo viene tenuto lontano da altre realtà, quindi conoscono solo il metro quadro dove vivono e si continua la guerra. Si continua la guerra perché c'è da estrarre cobalto, c'è da estrarre coltan, c'è da estrarre oro, diamanti, perché ci sono anche quelli. Tutto questo perché, con la grande responsabilità della NATO e dell'Unione Europea, perché a fronte di questo pseudo nostro benessere che ci sta scivolando tra le mani ultimamente, in nome di questo pseudo benessere noi siamo complici, io mi sento complice. Io mi ci sento proprio dentro complice di questi massacri. Io parlo del Congo perché lo conosco, ma ce ne sono tanti altri, si potrebbe portare tante altre esperienze e realtà. Oggi nel mondo ci sono 41-42 tra guerre e conflitti e sono tutte esclusivamente per il potere economico e per il potere politico. Non ci sono guerre di religioni, la religione viene presa come scusa, come scusante, per poter, sfruttando l'ignoranza della gente, la gente ignorante tenuta dai dittatori tali, perché così almeno possono manipolare meglio, vengono appunto fagocitati per fare queste guerre cosiddette di religione, ma che di religione non c'è assolutamente niente. Pensate che nel villaggio dove io sono stata convivono pacificamente, forse perché non c'è tanta comunicazione, musulmani e cattolici e cristiani cattolici. Quindi vedete bene che quando non arriva lo stimolo a fare delle religioni qualcosa che l'una si oppone all'altra, le religioni vivono in pace tra sé, si rispettano. Vi volevo portare, ecco, stamani mattina questa riflessione. Le nostre scelte quotidiane fanno la differenza. Ecco, quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di divulgare queste informazioni il più possibile nelle scuole, con i nostri figli, ma anche con gli adulti, perché anche gli adulti sono sensibili e possono ancora imparare, non si finisce mai di imparare. Quindi portare all'attenzione dei nostri cittadini, di noi stessi, quello che sta realmente accadendo, affinché le coscienze si sveglino, abbiano un tumulto, abbiano un sussulto e dicano: ma basta, basta, basta a queste stragi. Grazie e alla prossima.